Non li vedi conflitti, non gridi, ridi, credi che le liti siano solo tre marciapiedi. Temi diretti che la vita sferra, ma li tieni stretti, uccidi il primo stronzo con violenza. Passami sta sigaretta, ma bella grossa, dai forza che alleggerisco sta pesantezza. Di giorno mi porto ogni risposta, ma di notte ho mille altre domande per la testa. E acqua fresca sul mio corpo e il tuo dolce viso, fin troppo corso, un altro sforzo, non dare peso al trascorso, ma pensa, ho seminato troppo in sto percorso per arrivare a un tuo sorriso. Ho messo limiti nella mia vita un'altra volta, ma non penso alla mia infanzia e ciò che mi ha dato. Cercavo di scappare da quella culla, ma si è capovolta e sono rimasto intrappolato nel mio passato. Quei fantasmi non li plachi, ci ho provato, ma ho bisogno di fumare. Se non fumo non sogno, se non sogno sto male. Se non fumo non dormo e se non dormo continuo a fumare. Quei fantasmi non li plachi, ci ho provato, ma ho bisogno di fumare. Se non fumo non sogno, se non sogno sto male. Se non fumo non dormo e se non dormo continuo a fumare. Chi sono? Me lo chiedo da tempo. Dentro un bimbo nel parchetto, fuori un uomo col cuore già spento, primo ad ogni gioia e sentimento, ma col naso verso il firmamento. Scusa se ti mento, quando dico che sto meglio, in realtà la notte resto sveglio. Scrivo finché svengo, ti penso spesso, perso fra nuvole di verde incenso. Accendo, tendo sempre al limite, vedo sangue ovunque, perché rossa è sempre l'iride. Quando resti solo, non ti resta che scrivere. Raccolgo i resti delle mie speranze effimere, fiamme interne per estinguerle, non basta l'amore. Trovo pace solo se scrivo parole, quelle persone che amo vorrei stringerle. Certe sere vorrei riviverle, ma non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Thank you.